Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Alla fine delle partite andai da mia mamma. Lei stava lavorando in cucina. Secondo me ho fatto 13, mamma. Lei aveva alle spalle circa 25 stagioni di schedine accartocciate nel pattume e non reagì più di tanto alla mia affermazione. Io non potevo aspettare. Andai a svegliare il detentore della schedina, mio padre. Dopo qualche minuto di sbuffi e rantoli, il babbo aprì gli occhi in maniera definitiva. Sonnellino pomeridiano interrotto in maniera traumatica. Tornai in soggiorno. Mi misi ad aspettarlo seduto sulla sedia, vicino alla sua. Lo vidi apparire nella classica tenuta da domenica pomeriggio autunnale. Pesante tuta turchese e calzini di lana grossa. Sono Alessandro Venturi, ho 40 anni, abito a Ravenna. Sono sposato ormai da 10 anni, ho due bimbe, una di 7 anni e una di 2. Sono, diciamo, una specie di capoarea di una catena di supermercati. Non c'è più. 90° minuto mi dicono che non c'è più. Alessandro Marcottulli dice forse questa stagione l'hanno cassato. Mi pare. C'è ancora, ma forse lo toglieranno. Questa è una sigla che i più giovani non conoscono. Mi piace cominciare così, con una banalità enorme. È una sigla che i più giovani non conoscono, ma quelli che sono cresciuti più o meno negli anni 80 si ricorderanno la fine del fine settimana, cioè le 6, più o meno le 6:20. Era attorno alle 6:15, 6:20 che cominciava il 90° minuto, in cui si vedevano tutti i gol della domenica pomeriggio. Oggi si parla di quello e si parla di grandi colpi di fortuna. 349-238-6666. Avete presente che ogni tanto ci sono nella lingua corrente entrano dei modi di dire che hanno a che fare solo con una piccola parte del vivere e della cultura del posto in cui ci si trova, nella fattispecie quella italiana. Fare 13 al totocalcio vuol dire vincere la schedina. Esiste ancora la schedina? Sì, esiste ancora. Vuol dire vincere la schedina, ma vuol dire anche, proprio entrato poi nel linguaggio comune, avere un gran colpo di fortuna. La storia di oggi è la storia di Alessandro e parla di quella cosa lì. Parla in realtà di due destini che si incrociano. Sì, lo volevo dire e l'ho detto. Sono due destini che si incrociano a un'ora di distanza, chiaramente, dal programma detentore di questo titolo. Sono i destini di una persona che si chiama Alessandro, che questa storia ce l'ha scritta, e di un'altra persona invece che è un calciatore che i più ricorderanno. È un calciatore con i baffi che si chiama Massimo Palanca. Era un calciatore che ha giocato soprattutto nel Catanzaro, e in questa storia lui gioca proprio lì, quando accade questa domenica pomeriggio in cui Alessandro Venturi fa 13 al totocalcio. 349-238-6666, oppure voi siete qui @radio24.it. Se avete fatto 13 al totocalcio, se l'avete fatto di recente, se avete avuto un grande colpo di fortuna, ma anche se avete vinto dei soldi, vale, no? Vale se avete vinto, se tipo avete fatto il gratte vinci stamattina. Quanto si vince al gratte vinci? 5 euro? No, dai 5 a di più, dai 5 ai 200 euro, di più nessuno, ok. 349-238-6666, se avete vinto qualcosa, proprio in soldi, di recente, o se avete avuto un grande colpo di fortuna. Nei messaggi che sono arrivati sul profilo Facebook si capisce che avere fortuna in Italia vuol dire trovare lavoro. Francesca, 10 anni di contratti da precaria in comune. Resto incinta e mi faccio la maternità, in ansia da conferma di contratto. Resto incinta di nuovo e non lo so ancora. Mi chiama la CGL per... Si può dire CGL alla D24? Mi chiama la CGL per avvisarmi che 30 impiegati vengono stabilizzati con contratto a tempo indeterminato la prossima settimana. Sono tra la rosa dei consacrati. Il super enalotto a me fa un baffo. Cinzia, la mia più grande fortuna è stata conoscere mio marito 20 anni fa ed essere ancora innamorati. Che carini, ma se mi date del dentifricio mi tolgo la carie dai denti. Caterina, su circa 3200 concorrenti ce l'ho fatta per un pugno di posti. Concorso pubblico per laureati all'ultimo colpo di test psicoattitudinali. Come vincere il super enalotto e tirare i remi in barca? Come tirare i remi in barca? Perché è un posto pubblico. Peppe lo aveva detto il giorno della mia laurea. Chi è Peppe? L'aveva detto il giorno della mia laurea. Vedrai ora quanti concorsi. Tutto calcio, enalotto, lotto. Boh, questa non l'ho capita. E poi Giorgia, felicissima, sarò tra i primi concorrenti del nuovo quiz di Gerry Scotti, Money Drop. Registro domani. Mi verrebbe da dire che botta di culo.

Gli direi grazie, anche dopo 30 anni grazie, perché comunque sa che non hai svoltato la mia vita, però sicuramente una botta gli hai data. Senti, io chiedo di fare una puntata di Destini Incrociati su te e Massimo Palanca, vediamo se me la fanno. Alessandro, ti ringrazio tantissimo, ti lascio tornare in riunione. Ciao, grazie. Ciao, buona giornata. Voi siete qui. Quella di oggi non è più la foto. Signore e signori, oggi quella che vi sto per raccontare non è tanto la fotografia di Alessandro, ma un disegno. Ve ne avevo parlato venerdì, da oggi praticamente per il prossimo mese, un mese e mezzo. Troverete sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui, un disegno, un'illustrazione che racconta qualcosa della storia che è stata raccontata. È un'operazione che abbiamo fatto insieme all'Istituto Europeo di Design, per cui gli studenti del secondo e terzo corso di illustrazione hanno preso le storie e le hanno illustrate. Quella di oggi è di Maria Vittoria Romano e racconta di un bambino che sta attaccando delle figurine, di un babbo che lo aiuta a scrivere sulla schedina e poi di lui che la tiene in mano, la osserva, ha una mamma alle spalle e un padre con un pugno alzato in segno di vittoria. Vi ripeto, la trovate sul sito di Radio 24 ogni giorno insieme alla mappa che vi stiamo lentamente componendo delle storie di questo paese, delle storie di questo programma. Trovate anche questa illustrazione, fateci un giro perché ne vale la pena. 349-238-6666, a proposito di fare 13, io ho fatto tombola al tombolone del paese, in palio una bici, neo? Ah, beh, ho capito. Qual è il neo di tutto questo? È che l'abbiamo fatto in due e tirando un numero per decidere prendo un 2. Cosa vuol dire? Cioè che non l'ha vinta alla fine, che ha vinto l'altro, credo. Ereditare 220.000 euro vale? Beh, direi di sì. Si firma l'anonimo. La gente ha paura di dire che vince dei soldi. È incredibile, è incredibile. Era il 1966, i miei genitori appena cambiato casa, senza soldi al pomeriggio. Senza soldi al pomeriggio piangevano, senza soldi, a mia ripetizione. Stavano piangendo ed erano un pomeriggio ed erano senza soldi. Suona il campanello ed era una vicina. Teneva in mano una schedina buttata via. Per fortuna mia sorella aveva scritto l'indirizzo. Quel mese si poteva mangiare. Erika da Trieste. Visto che oggi ci siamo però un pochettino trasformati in una puntata di Destini Incrociati, noi quando abbiamo letto il racconto di Alessandro ci siamo detti: qua noi non possiamo esimerci da sentire la persona che ha reso possibile il sogno di una vita, cioè la persona che ha fatto il suo lavoro quel giorno, quella domenica pomeriggio, ha fatto un gol, però di fatto quel gol ha cambiato qualcosa nei destini di Alessandro e della sua famiglia. Quella persona si chiama Massimo Palanca. Signor Palanca, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie mille innanzitutto per essere qui con noi. Cioè, grazie poi, a voi per avermi chiamato. Con me direi, perché sono da solo, però facciamo che siamo io e lei. Io vorrei ricordare, seguo il calcio, nel 1980 avevo 5 anni e quindi non mi ricordavo, diciamo, di memoria mia quello che era successo. E quindi ho chiesto a Gigi Garanzini qui in redazione chi era esattamente Massimo Palanca e lui mi ha raccontato, mi ha raccontato, signor Palanca, che Sandro Ciotti di lei ha detto uno dei migliori sinistri d'Europa. Ha esagerato un po', vero? no, da lei mi aspettavo che tenesse su. era un amico, Sandro Ciotti, perciò era sempre prodigo di complimenti verso di me. Allora, faccio un veloce, come dire, chi era Massimo Palanca? Massimo Palanca era un numero 11, lei, signor Palanca, perciò sì. Una seconda punta? Sì, sì, sì. Cioè, non era il centravanti, quando c'era il 9 e l'11, insomma. Quando c'era l'9 e l'11 ero l'11, anche perché il fisico non mi consentiva di essere un 9. Perché era gracilino? Ero 1,71 m, insomma, ecco, non è che potevo andare a competere con stopper, allora c'erano gli stopper di 1,90 m, insomma. Però mi defilavo e cercavo di aggirarli e usare un po' l'astuzia, ecco. Quindi lei si trovava davanti il terzino destro, giusto? Sì, sì, il 2. Il 2, cioè quindi si parla di marcatura uomo. Sì, sì, come no. Ma quindi, scusi, nella marcatura uomo, per chi non capisse, no? La marcatura zona è semplicemente un difensore tiene la sua zona di campo e marca chi arriva, giusto? Mi corregga se sbaglio. Guardi, si è fatta tanta confusione sulla zona, perché il gioco a zona è il gioco difensivo per eccellenza. Cioè praticamente è come un difensore nella propria zona marca d'uomo. Ok. Invece oggi hanno capito. Un po'

con qualche cosa di materiale pure. Io ringrazio veramente tutte e due, ringrazio Alessandro per la storia e ringrazio il signor Palanca per essere stato con noi e per quel gol ovviamente. Grazie ancora a tutte e due, grazie signor Palanca. Grazie, ciao Alessandro. Ciao. Arrivederci, grazie mille. È stato un momento, direi, abbiamo toccato forse il momento emotivamente più forte di questo programma. 349-238-6666. Vabbè, adesso cominciano a arrivare messaggi che dicono che Palanca, va bene, era un fenomeno dai calci d'angolo, faceva gol da corner. Abbiamo capito, va bene, abbiamo capito, l'ho detto. Vi ricordo però la classifica marcatore di quell'anno, ragazzi. Primo Roberto Pruzzo, secondo Massimo Palanca, terzo Alessandro Spillo Altobelli. Vi dico anche com'è finito quell'anno. La Juventus ha vinto il campionato, strano, no? Nell'80-81 la Juventus vincesse il campionato. Seconda la Roma, terza il Napoli, quarta l'Inter. Eravamo in Champions League. Il Catanzaro ottavo, ragazzi, il Catanzaro ottavo. Volevo leggere un ultimo messaggio, aspetta un secondo. Ho fatto 13 a militare, 1980, vinti 30.000 lire in 5. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata di oggi. La storia di oggi era quella di Alessandro, parlava di colpi di fortuna. Quella di domani è la storia di Claudio e parla della forza dell'abitudine. Ogni volta che una cosa nuova arriva dove ce n'era un'altra, succede sempre qualcosa di strano. È come quando in un giorno di marzo arriva il caldo che di solito c'è a maggio o a giugno e si passa in un attimo da 15 a 25 gradi. Le cose nuove sono sempre difficili da gestire perché nel bene e nel male stravolgono quello che sei. Anzi, a quel punto quello che sei è già quello che eri. Fortuna che poi arriva l'abitudine e pensa lei a tutto.